lascia e fa la diva. Che ghiotta è il primo sotto che arriva e poi gli scorso saliva. Era già fatto. Quante troie hanno bevuto il mio sputo dopo aver preso il mio cazzo. Sto fatto se scrivo fino a che non mi sono svuotato e ricomincio motivato appena mi cazzo. Non mi rilasso andando a spasso con me stesso. Penso il quadro pesa lo stesso. Io stasera non esco e mando in stallo il mio cervello in ballo contro me e mio fratello. Considera questo, mi faccio programmi, sono anni che accuso malanni e i miei piani di ripresa si trasformano in grammi. Stai pronto a seguirmi, se riesci a capirmi e non sai che dirmi, allora smettila di insegnarmi a recuperarmi, invece siediti, aiutami a finirmi. Con sti tizi di oggi ci vedo poco da fidarsi, di queste cose accompagnate da scarsi. E che cosa vuoi farci? Cosa vuoi farci? Che cazzo vuoi farci? Vorrei prenderli a calci, ma dobbiamo abituarci e loro devono ignorarci e restarci con queste troie fake. Non è per niente easy. Cocaine gate, cocaine hate, non è troppo busy. Fanno i loro piani, i tuoi li fanno andare in crisi. Con vizi e voglie più di consumate meretrici. Con visi carini si vendono passando un paio di quartini. La vogliono la parità, ma quando gli va esce fuori il sesso debole, non le puoi toccare. Metti la pecora fino a quando lo puoi fare. Nessuna regola, pochi gioielli, zero pare. Non dietemi microfono, sono fatto dalle gare. Vedo soltanto zoccole che giurano all'altare. Meglio non continuare, mi fermo qui. E se qualcuno si è offesa, zero scuse, va così. Infermiera, intensifichi la cura al 143, prima che ci faccia denunciare per schiamazzi quel paranoide schizofrenico incondizionato. Ma l'hai sentito? Spariamo a cazzo, non ci far salire lo scazzo. Travolti dalla vita non capiamo più un cazzo. Senti giro voce che sono pazzo, mentre parli mi ripeto le stronzate che smazzo. Spariamo a cazzo, non ci far salire lo scazzo. Travolti dalla vita non capiamo più un cazzo. Rinchiudeteci dentro il palazzo, così facciamo vergogna con le stronzate che smazzo. Vogliamo... un po' contraci nella zona che pompiamo il jump around. Siamo spesso sul down, ben elevati dal ground. Musica palla, manco prossimo concerto downtown. Provati e fumati ma non ancora arrivati. Bruciati, sterici, nati, dannati, stereo fissati. Siamo quelli sbagliati, non dire di no. C'è un visto notte fondo, smorfinare in metro. Con lo stile che ho, ci si fonda una scuola. Mi frega del futuro, sto con l'acqua alla gola. Ma continuo a repare la lingua ormai da sola. Più cattiva, convincente, più diretta di uno sparo di qualsiasi pistola. Non farmi la ola, dammi solo un pacco d'erba in una stanza viola. Con un po' di buon rap, non c'è pezzo, sono pezzo. Solo questo mi consola. In tutto questo tempo non mi era mai capitato di vedere un così bravo ragazzo, di sani principi intendo, avercela a morte con la vita. Un peccato, davvero. Con le fisse che ho, io qui scoppio. Se penso troppo, il mio rancore è doppio. Porto stile raddoppio, ultra potenziato. Conservo l'odio segreto da quando sono nato e lo tengo represso, il gioco è complicato. Dal mio sorriso stampato, ma chi ti parla l'altro lato non può dire davvero di avermi conosciuto. Se dopo il mio cazzo non ti becchi lo sputo. Qui qualcosa non quadra. Infermiera, vada a fare un controllo, voglio vederci chiaro. Spariamo a cazzo, non ci fa salire lo scazzo. Travolti dalla vita non capiamo più un cazzo. Senti giro voce che sono pazzo, mentre parli mi ripeto le stronzate che smazzo. Spariamo a cazzo, non ci fa salire lo scazzo. Travolti dalla vita non capiamo più un cazzo. Rinchiudeteci dentro un palazzo, così facciamo verdose delle stronzate che smazzo. Vogliamo, spariamo a cazzo, non ci fa salire lo scazzo. Travolti dalla vita non capiamo più un cazzo. Senti giro voce che sono pazzo, mentre parli mi ripeto le stronzate che smazzo. Spariamo a cazzo, non ci fa salire lo scazzo. Travolti dalla vita non capiamo più un cazzo. Rinchiudeteci dentro un palazzo, così facciamo verdose delle stronzate che smazzo. Vogliamo. Infermiera, per favore, vuole andare a vedere cosa succede, sì o no?